Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, buongiorno. Oggi appuntamento speciale, è giovedì e quindi mangiamo insieme a Mangia con me. Potete, come sempre, l'invito è aperto anche per amici, molti di voi ne hanno portati e i numeri della nostra community stanno lievitando. Siamo arrivati a 1500, quindi continuate a seguirci, potete compilare il questionario che è sul nostro sito. Uno di voi potrebbe essere il prossimo protagonista del nostro reality, perché le selezioni continuano e i nostri medici vi seguiranno per 8 settimane. Come ormai sapete, per tutti voi che avete compilato il questionario e per chi lo compilerà da adesso in poi, ci sono 2 smart box in regalo. Per riceverle dovete seguire Mangia con me con attenzione e quando sentirete questo suono, solo allora e non ora, dovrete inviare rapidamente un SMS al 349-238-6666 con la mail con cui avete compilato il questionario. Tutto chiaro quindi? Seguitemi e state pronti. Quando sentirete, andiamo? E lo sentirete nel corso della trasmissione, mandate il vostro SMS. Allora andiamo a conoscere la protagonista della 6ª puntata di Mangia con me. Erika, 34 anni, mora, riccia, vive a Opera in provincia di Milano e fa l'impiegata. E sono impiegata in una società finanziaria, mi occupo di contabilità clienti. L'aspetto positivo del mio lavoro è appunto il rapporto col cliente, e quello un po' negativo è che è un po' frenetico perché lavoro in 4 ore, quindi devo concentrare un po' tutto in quelle 4 ore. Più della scrivania, Erika ama la balera, ha il ritmo nel sangue e infatti sognava di fare la ballerina. In effetti sono una bambina nata col tutù, ho fatto per tanti anni danza classica, poi ho voluto spaziare, quindi sono andata verso l'hip hop, verso il moderno e poi sono arrivata a concludere con latinoamericano e infine flamenco. Del flamenco mi piace la complessità del ballo, perché mi sembrava semplice, invece è un ballo molto complesso, la passione che c'è dentro quest'arte e il fatto che richiami comunque un'etnicità che è quella spagnola. Dimmi se non è incredibile. Non esiste al mondo una città come questa. Tu sei innamorato di un sogno. Io sono innamorato di te. Ma Erika ha un altro grande amore, Jean-Marc, un bellissimo normanno che 5 anni fa le ha rubato il cuore. Di Jean-Marc quello che mi ha colpito sono i suoi splendidi occhi azzurri. E per me lui è venuto in Italia e per lui ho imparato il francese, che è un po' la mia seconda lingua. È un grandissimo sportivo, lui adora la bici che è come le sue seconde gambe, ama tantissimo la montagna, l'unico problema è che a causa di chili che ho preso in quest'ultimo periodo faccio un po' fatica a seguirlo nelle sue attività. Quale libro di dieta stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere. Chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente? Erika ha deciso di ridare un ritmo alla sua dieta e dare inizio a un programma di remise en forme. Sì, in effetti negli ultimi anni mi sono un po' appesantita, quindi mi vedo stanca, non mi riconosco più davanti allo specchio, anche perché sono alta 1,67 e peso 80 kg, quindi un po' di differenza c'è. Avevo deciso di cambiare questa situazione, quindi ho iniziato a leggere, stavo leggendo un libro di diete, ma non mi convinceva per niente, quindi quando ho sentito il programma ho deciso che volevo mangiare con voi. Ottima idea, Erika, benvenuta. Sono molto lieta di essere in tua compagnia oggi. Ciao. Ciao, grazie. Erika, sei pronta a metterti in pista allora? E che note ti piacerebbe ascoltare per riprendere questo ritmo? Io sono prontissima. L'unica cosa che in questo momento sto aspettando un cavaliere che mi inviti a ballare. Direi che però, considerata la mia situazione fisica, forse dovrei iniziare con le note di un bel valzer. Ma noi il cavaliere ce l'abbiamo, è il dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dottor Ongaro, che insieme alla dottoressa Reverso si occuperà della nostra Erika e l'aiuterà a riprendere il passo e l'aiuterà anche a ritrovare nel cibo quello che le serve per stare bene. Questa è la filosofia di Mangia con me. Sì, non so se sarò all'altezza di essere un cavaliere, viste le esperienze di Erika come ballerina, e non vorrei che il Normanno si arrabbiasse, ma cercherò di fare il cavaliere per quanto possibile nella parte alimentare, dove certamente con Paola troveremo gli ingredienti giusti per ridare ad Erika la forma perfetta che vuole riacquistare. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, per sostenere Erika, per fare le vostre domande. Dottor Ongaro, lei faccia il cavaliere, perché come si dice, occhio non vede, cuore non duole. Noi siamo alla radio e quindi il Normanno ci può solo sentire. Intanto Erika, direi partiamo dalle domande di rito. Invito anche gli amici da casa a rispondere, per capire se siete in sintonia con Erika, e quindi potete anche naturalmente intervenire. Erika, come ti senti? Mi sento purtroppo appesantita. I chili che ho preso sono stati tanti in pochi anni, mi hanno fatto passare da una 42 morbida, diciamo, a una 46 bella abbondante. Direi che alla mia età, 34 anni, l'immagine che vedo nello specchio proprio non mi corrisponde. Oltretutto mi sembra che questi chili non abbiano solo modificato l'immagine che vedo, ma anche come mi vedo come persona. Infatti te lo devo proprio dire, mi sento vecchia, mi sento perché, come se avessi molti più anni. Perché Erika, spesso i chili pesano sul corpo ma anche nella mente. Allora Erika, come vuoi sentirti? Mi vorrei sentire più leggera, come mi sentivo quando appunto facevo la ballerina. Sì. E poi mi piacerebbe poter seguire di nuovo Jean-Marc in tutte le sue attività. Questo Normanno ti ha proprio rubato il cuore. Cosa ti spinge a cambiare, a parte il Normanno? Beh, sicuramente la voglia di ritornare com'ero, quindi ritornare alla mia 42 morbida, rimodellare il mio corpo e soprattutto perdere l'orribile pancetta. A chi vogliamo dare la colpa di questi chili in più? Probabilmente una parte ai cambiamenti dati dal matrimonio, al lavoro sedentario, al fatto che ho smesso di fare attività fisica, quindi credo che tutte queste cose abbiano forse fatto addormentare il mio metabolismo. Dottor Ongaro, per sua esperienza, il matrimonio quanto pesa? Beh, devo dire che il matrimonio in effetti pesa sia sugli uomini che sulle donne in termini di qualche chilo in più. Dicono anche alcune ricerche che può essere parte di un adattamento biologico che è piuttosto affascinante, cioè il matrimonio, che è la situazione di stabilità di coppia o la convivenza, fa sì che ci siano certi cambiamenti ormonali che fanno sì che la nostra propensione a mantenerci in forma sia leggermente minore. Per esempio nei maschi si è visto che il testosterone cala con il matrimonio, cala ancora di più con i figli. È un discorso interessante perché può essere legato al fatto che hai un po', da un punto di vista della natura, raggiunto il tuo obiettivo riproduttivo e quindi hai meno bisogno di certi ormoni. Sono però anche ormoni che mantengono per esempio la massa magra, la massa muscolare. Quindi può essere che in effetti la vita di coppia da questo punto di vista rallenti un po' il metabolismo. Mi sa che, come sempre, lei, dottor Ongaro, abbia ragione. Andiamo a sentire la ricerca. Bellissime il giorno delle nozze, ma con quasi 10 kg in più a un anno dal fatidico sì. Incredibile ma vero. Dopo solo 12 mesi dall'ingresso in chiesa in forma smagliante, una donna su 5 tende a dire addio a un'alimentazione equilibrata, prediligendo grandi abbuffate a cibi sani e dietetici. Lo dimostra uno studio condotto su 3.000 signore sposate, secondo il quale più di un terzo del gentil sesso trova estrema difficoltà a mangiar sano durante il primo anno di matrimonio, poiché svanisce quell'ansia da prestazione strettamente legata alla preparazione dei festeggiamenti o alla luna di miele. Insomma, dopo aver messo l'anello al dito, il relax accanto al maritino è assicurato per circa il 42% delle intervistate, mentre il 22% ritiene di poter mangiare di tutto e di più, avendo già ammaliato e conquistato l'atteso principe azzurro. Insomma, una ricerca al femminile da Salute 24, ma anche gli uomini con il matrimonio si ammorbidiscono. In parte l'ha anticipato il dottor Ongaro e poi sono lì da vedere. A voi com'è andata la convivenza o il matrimonio? Hanno spostato in avanti il l'ago della bilancia o a entrambe o a solo uno dei due? Chiamatemi 800 24 00 24. Dottor Ongaro. Nicoletta, che la domanda tra l'altro sia corretta e ci aiuta a capire che in alcune situazioni la nostra vita quasi si appiattisce un po'. Tra l'altro questo mangiare assieme è risaputo, comporta, è ovviamente socialmente molto bello, però comporta in genere che si mangia un po' di più, ma alle volte le persone ingrassano anche quando non mangiano molto, e non mangiano nemmeno molto sbagliato, e a volte non dimagriscono quando mangiano meglio. Questo è un segno che probabilmente è il metabolismo che si sta spegnendo. In parte possono essere gli ormoni che ci giocano un brutto scherzo in alcune fasi della nostra vita, come abbiamo detto prima, ma può essere anche per esempio la mancanza di attività fisica molto importante. Erika parlava di appunto un lavoro di tipo sedentario come la maggior parte di noi. In altre parole, si instaura un circolo vizioso in cui si aumenta di peso, il peso di troppo ci rende l'esercizio fisico più difficile, quindi lo riduciamo, e questo ci fa aumentare ancora di più di peso. Quindi credo che per Erika sia fondamentale riattivare il metabolismo, e insomma cercheremo di insegnare e parlare di alcuni trucchi che in parte credo i nostri ascoltatori insomma già conoscano abbastanza bene, almeno qualcuno di questi. Allora mettiamoli subito alla prova con il nostro quizzettone. Cosa si deve fare per accelerare il metabolismo? Aumentare l'attività fisica e aumentare un po' il consumo di proteine rispetto ai carboidrati? Saltare i pasti? Aumentare i cereali? 800 24 00 24, se volete rispondere e argomentare, trovare la risposta esatta. Dato che parliamo di ritmo, di riattivare un po', di rinascere, abbiamo pensato di abbinare al nostro quizzettone un libro molto interessante che parla un po', che parla della natura e che in questo periodo si risveglia, e infatti il libro che abbiamo abbinato oggi è proprio Le stagioni del maestro giardiniere. 182 suggerimenti d'autore per coltivare giardino, orto, balcone, piante da casa con competenza e intima soddisfazione, un po' come noi facciamo con il vostro stile alimentare. Ma se avete qualche dubbio, non avete la risposta, se volete anche voi dare una mossa al vostro metabolismo, seguite i consigli della dottoressa Paola Reverso, medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te, che tra le righe sono certa che vi darà la risposta. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dallo stile di Erika. Allora, secondo me Erika dovrebbe, visto che ha anche il vantaggio di aver sposato un francese, iniziare a pensare come le donne francesi. Le donne francesi, io ho la mamma di mia cognata è francese, mi ha segnato qualche trucco, hanno una buona capacità di autoingannarsi. Nel senso che quando loro hanno qualche problema di linea, sì, e hanno bisogno di dimagrire, non ne parlano. Parlano quando si riuniscono con le amiche, parlano di tanti argomenti, ma non si parla mai di dieta, si parla di cibo e di piacere. Si autoingannano con menù a basso apporto calorico, che quindi riducano le calorie, ma sono molto sfiziosi ed appaganti. Erika, quindi puntiamo sulle francesi. Questo è il primo trucco. Concretamente, andando a tavola, Paola? Concretamente oggi partiamo dalla cena, sì, anziché dalla colazione come facciamo di solito. E visto che Erika mi ha raccontato delle sue vellutate che prepara alla sera, io le propongo una minestra fredda estiva, dove al posto della panna mettiamo uno fresco yogurt greco. Perché risparmiamo anche calorie, dottoressa Reverso? Perché con dello yogurt greco magro risparmiamo delle ottime calorie, ma soprattutto abbiamo questa cremosità e quindi riusciamo ad appagare il nostro senso del piacere, il nostro gusto. Poi un altro trucco che si può fare è preparare un omelette di albumi aggiungendo pochissima ricotta, perché la renda molto più spumosa, altrimenti l'omelette fatta solo con gli albumi diventa un po' troppo secca. E al normanno le omelette piacciono, vero Erika? Non possiamo, sicuramente, non possiamo toglierli. Ma Dottoressa Reverso, con queste indicazioni, con queste ricette che ci aiutano a risparmiare calorie, noi diamo una svegliatina al nostro metabolismo? Perché l'obiettivo della trasmissione di oggi è carpire da voi trucchi per svegliarlo un po'. Molti di noi lamentano un metabolismo un po' appisolato, e quindi già il sostituire la panna ad esempio con lo yogurt ci fa risparmiare calorie, ma il metabolismo come reagisce? Il metabolismo reagisce, diamo un piccolo aiuto di nuovo allora a questo punto al quizzettone, perché beh, dico solo una piccola cosa: l'albume è l'unico alimento ricco di sole proteine. Chi ha orecchie per intendere intenda. E nel corso della giornata che cosa dobbiamo fare? Nel corso della giornata bisogna comunque mangiare un pochino di carboidrati, questo sempre, perché ricordiamoci che per metabolizzare i grassi, per metabolizzare le proteine, insomma per metabolizzare occorre energia, quindi prendiamola dai carboidrati, ma prendiamola dai carboidrati giusti e ben distribuiti nella giornata. Quindi una colazione a base di carboidrati, nel caso di Erika aggiungeremo un pochino di proteine. Molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo il loro peso prima e dopo il matrimonio, e dottor Ongaro, sembra, almeno dai messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, che la tendenza sia ad arrotondarsi un po'. Sì, senza dubbio, devo dire che questo lo vedo anche con i miei pazienti e veramente riguarda tutti e due i sessi, e devo anche dire che spesso si tende a pensare che siano le mogli a viziare i mariti e sia questa l'origine dell'aumento di peso. Attenzione che spesso è il contrario, sono i mariti che sono molto esigenti e non si adattano a un'alimentazione leggera, ma vogliono che le mogli cucinino sempre delle cose molto succulente, quindi non è detto che sia la moglie che vizia il marito, può essere anche l'opposto. E certo che con la vita di coppia la tendenza è quella ad aumentare di peso. Ma il metabolismo femminile e quello maschile rispondono a delle regole diverse o siamo uguali? No, rispondono ovviamente a delle regole da un punto di vista di base cellulare uguali, però sono suscettibili a delle influenze esterne che sono ovviamente differenti, in particolare quella ormonale. Quindi nella donna, specialmente avvicinandosi agli anni della menopausa e superandoli, ci possono essere dei fenomeni legati all'aumento di peso che sono indotti in maniera molto più forte che nel maschio da una situazione di squilibrio ormonale. Se il metabolismo si addormenta, succede così anche al desiderio, mi scrive Tony al 349-238-6666? E alle volte si associano questi due fenomeni, nel senso che fanno parte di quell'adattamento di cui avete parlato anche nella ricerca che avete menzionato. In un certo senso si arriva, non voglio dire alla pace dei sensi, perché è un termine che non mi piace. Lei ricordi, dottor Ongaro, che lei oggi è un cavaliere, eh? Ecco, appunto, quindi deve essere più che mai affascinante, brillante, più seducente. Più che mai, assolutamente, un grande ballerino. Però quello che volevo dire è che effettivamente la dinamica di una coppia stabile cambia. Insomma, e quindi ci sono delle ragioni biologiche per cui l'aumento di peso può anche associarsi ad un calo del desiderio sessuale e a questa sorta di maggior appiattimento, diciamo, metabolico e ormonale. Cosa che noi non vogliamo. Annalisa, buongiorno da Brescia. Buongiorno a lei, benvenuta, si accomodi. Grazie. Abbiamo riservato un posto per lei. Grazie. Annalisa. Allora, io ho 38 anni e sono prossima al matrimonio. Il 31 agosto di quest'anno mi sposerò con un ragazzo di 8 anni e mezzo più giovane di me. Ho sempre avuto un fisico importante, nel senso che ho un seno abbondante, non sono stata mai magrissima. Sì. Per diverse vicissitudini ho preso molti chili. Sì. E abbiamo iniziato insieme una dieta con il mio compagno, perché poi viviamo insieme siamo insieme da 8 anni, ma viviamo insieme da 3. Sì. E niente, è una dieta che ci sta avvicinando anche, perché insomma è una cosa che stiamo condividendo, quindi non sono sola neanche in questo momento. L'obiettivo è quello di sentirci entrambi meglio. Io di recuperare anche un po' la mia sensazione di femminilità, perché come diceva un po' Erika, i chili pesano sul corpo ma anche proprio sulla percezione che abbiamo di noi. Sì, e quindi Annalisa, in dieta, una dieta di coppia. Sì, Sì, stiamo facendo proprio una dieta di coppia. Ad Annalisa, Annalisa, devo dare i mercati, ma intanto le consiglio di andare sul sito di Mangia con me, perché la dottoressa Reverso prepara delle ricette molto sfiziose ma assolutamente equilibrate, e quindi sarà l'occasione magari per preparare una cenetta con le ricette della dottoressa Reverso, e poi ci faccia sapere. Adesso noi andiamo a sentire i mercati e il meteo, ma come sempre prima il nostro Daily Lab. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. Oggi consigli per dare la sveglia al nostro metabolismo. Stiamo seguendo il caso di Erika. Erika, sei in linea? Hai avuto già qualche piccolo consiglio, ma nel corso della nostra trasmissione naturalmente ne arriveranno altri. Poi la dottoressa Reverso scriverà per te un menù settimanale che tu seguirai, e poi naturalmente potrai contare sempre sull'aiuto dei nostri esperti e anche sull'aiuto delle persone che sul sito ti potranno sostenere. Musicalmente parlando, dando la sveglia al nostro metabolismo, dobbiamo passare da un ritmo lento a un ritmo dinamico, e a proposito di ritmo la parola passa ai nostri alti e bassi. Qui con me Andrea. Ciao, eccomi, Andrea. Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli ascoltatori. Erika è una ballerina che si è cimentata in vari generi e ritmi, dalla classica fino al flamenco e anche al latinoamericano. Il nostro album che avete ascoltato in queste puntate di Mangia con me ha proprio la caratteristica di contaminare e sperimentare vari generi e ritmi musicali, anche se non sono direttamente collegati con la canzone originale. Tutti conoscerete benissimo questa canzone splendida di Mina, ma la dedichiamo a Erika e la proponiamo in una versione a cappella proprio in latinoamericano. Oltre a questo, aggiungo che Erika desidera recuperare anche l'amore per se stessa. Ci ha raccontato anche dell'amore nei confronti di Jean-Marc, e quindi la canzone che le dedichiamo è proprio Vorrei che fosse amore. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per... Erika, senti già i piedini che vanno? Eh sì, sto già ballando. Stai già ballando. Secondo me con questo brano degli alti e bassi riesci anche a portare a ballare il normanno, e quindi a strapparlo qualche volta alla bici o alla montagna e a farlo ballare con te. Ma noi torniamo con questo ritmo al nostro metabolismo. La dottoressa Reverso e il dottor Ongaro ci devono spiegare bene che cosa dobbiamo fare per dargli una bella scossona. Allora, ci sono, dottor Ongaro, degli alimenti o combinazione di alimenti che svegliano il nostro metabolismo? Sì, allora ricordiamo prima di tutto l'attività fisica, Nicoletta, non dimentichiamoci, ci occupiamo di alimentazione ma non possiamo scordarci questo aspetto qui, e questo circolo vizioso di cui parlavo prima, da cui Erika deve assolutamente uscire riprendendo a muoversi. Poi ci sono sicuramente degli alimenti che favoriscono l'attivazione del metabolismo, è il tema del quiz, affrontiamolo da questo punto di vista, cioè alcuni alimenti richiedono, per essere metabolizzati, richiedono un consumo calorico maggiore e quindi fanno sì che il metabolismo sia più elevato, e quindi vanno ovviamente aumentate le quote di questi alimenti rispetto ad altri. Un'altra cosa velocissima, tornando all'ascoltatrice di prima, Annalisa, questa cosa dell'affrontare il cambiamento in coppia è fondamentale, cioè dobbiamo abbandonare il discorso della dieta, dobbiamo rivedere la nostra gestione dell'alimentazione, e se lo facciamo in coppia, addirittura coinvolgiamo tutta la famiglia, ancora meglio. Stessa cosa per l'attività fisica. Dottoressa Reverso, ma è anche importante il momento della giornata in cui assumiamo degli alimenti che, come suggeriva il dottor Ongaro, ci stiamo sempre di più avvicinando al nostro quizzettone. Alcuni di voi mi chiedono di farlo sentire adesso. Vediamo se Carmelo poi tra poco ce lo farà. Non mi dice di no, con calma, con calma. Dottoressa Reverso, se io mangio alcuni alimenti al mattino invece che alla sera o viceversa, quindi la distribuzione degli alimenti, quanto conta? conta tantissimo. Nel caso di Erika, i carboidrati vanno assunti nella prima parte della giornata, daranno energia anche per la seconda parte. Alla sera io, per esempio, ho pensato di proporle un merluzzo marinato con un gratin di asparagi. Erika, tu hai una distribuzione un po' particolare della, perché alla sera tendenzialmente o vai di vellutate o salti. Sì. Te la senti, ecco, te la senti di provare a ridistribuire un po' gli alimenti e quindi anche magari inventarti un nuovo modo di comunicare con il normanno, anche proprio con un mix di piatti francesi e piatti italiani, come ti suggerisce la dottoressa Reverso? Sì, sì, sono prontissima ad iniziare e provare. Allora, adesso noi andiamo, dai Carmelo, facciamo risentire il nostro quizzettone. Cosa si deve fare per accelerare il metabolismo? Aumentare l'attività fisica e aumentare un po' il consumo di proteine rispetto ai carboidrati? Saltare i pasti? Aumentare i cereali? 800 24 0024 per l'ascoltatore che risponde correttamente al nostro quizzettone, ma ormai gli alimenti li avete tutti e quindi per avere una risposta, per risvegliare un po' il nostro metabolismo, abbinato un libro, Le stagioni del maestro giardiniere, primavera, quindi la natura si risveglia, anche noi diamogli una mano. Dottor Ongaro. Beh, certo, qui entriamo veramente nel merito del quiz, sono curioso di vedere se qualcuno l'ha capito. Il consumo che viene richiesto per metabolizzare gli alimenti non è tutto costante. Uguale. E quindi è importante prediligere alcuni tipi di alimenti, che tra l'altro sono anche gli alimenti che consentono il mantenimento migliore della massa muscolare, al fine di riattivare nel modo corretto il consumo di calorie. Insomma, e ricordiamo anche un'altra cosa, Nicoletta, sì, sempre rapidissimamente, voglio dire, il quiz li aiutiamo sempre, aiutiamoli anche stavolta, il saltare, ecco, fa sì che il metabolismo ovviamente ne risenta in senso negativo, cioè se mi riducono lo stipendio, la prima cosa che faccio è cerco di spendere meno, giusto? La certo. Stessa cosa fa l'organismo. Allora, chi di voi salta cercando di dimagrire? 800 24 0024. Dottor Ongaro, lei è stato davvero gentile perché ha aiutato i nostri ascoltatori. È un cavaliere perfetto che ha accompagnato Erika alla festa, ma come spesso succede, la dama poi viene rapita e condotta in pista da un altro cavaliere misterioso, di cui però oggi vogliamo svelarvi il nome. In linea con noi abbiamo Raimondo Todaro, maestro di ballo. Ciao Raimondo. Ciao, buongiorno. Allora Raimondo, tu sei il cavaliere vero di Erika, perché Erika ama ballare e noi sappiamo che il ballo è un ottimo modo anche per tenersi in forma. Il dottor Ongaro diceva conta quello che mangiamo, ma conta anche quanto ci muoviamo, e se ci muoviamo a tempo di danza tutto sembra più naturale, più divertente, con dei vantaggi anche sul nostro fisico, perché ogni ballo modella in modo diverso. Raimondo. Ma certamente, certamente, diciamo che io sostengo una tesi, anche poi in base a quello che è il mio stile di vita. Considera che io sono non una buona forchetta, ma di più. Sì, una tre forchettoni. Ho sempre mangiato tantissimo, però ho sempre fatto un sacco di movimento. Io ho sempre sostenuto che comunque chi non fa attività fisica, ma riesce a rimanere comunque in linea perché si limita sul mangiare, per me è fondamentalmente una persona che non sta bene. Non gusta la vita, Raimondo. Esatto, e esatto. Quindi è come ballare quindi, da seduti. Per me il mantenimento del proprio corpo, del proprio fisico, deve venire attraverso l'attività Senti, fisica. Senti, Raimondo, ma uno deve gestirsi nel mangiare. Certo. Raimondo, però tu con Erika sfondi non una porta, un portone aperto, perché Erika ha fatto danza classica, hip hop, aiutami tu Erika, poi latinoamericani, stregata dal flamenco, vero? Sì. Ecco, allora io vorrei che anche tu le suggerissi magari qualche, dato che Erika vuole perdere un po' qualche peso, e soprattutto Erika vuole di tornare a far pace un po' con la sua immagine. sai che Erika ha un marito bellissimo, è un normanno con gli occhi blu. E allora tu che dieta fai una dieta di balli? Quale balli le suggeriresti? Il tango, il latino? Ma guarda, quello che brucia di più in assoluto è il jive, perché è tutto saltellato. Diciamo che con la musica ti diverti, però in realtà scarichi tantissimo e bruci tantissimo. Che ritmo poi ha questo? Perché come per esempio il samba, il cha-cha-cha, sono tutti dei balli latini dove c'è un gran movimento di fianchi, quindi diciamo la zona dello stomaco, tutta quella parte lì, quella fascia centrale, dove per la pancetta vanno bene, perché Erika diceva volevo sfilare un po' la pancia. Erika, tu sai ballare questi balli? O dobbiamo farti arrivare Raimondo Todaro? Sarà un po' difficile a casa per posta. Sarebbe magnifico se venisse a ballare come un pochino, ma direi che potrebbe essere interessante tentare col jive, perché non l'ho mai ballato. Ma che musica avrà? Fammi un po' la musica, Raimondo, che qua ci sono gli alti e bassi. Quattro quarti, jive, boogie, qualsiasi cosa, va bene, sono comunque balli veloci, balli saltellati. Quindi noi andiamo di saltello. Raimondo, lascia la tua cartolina che per la nostra Erika, perché la tua cartolina insieme alla canzone degli alti e bassi, alle diete della dottoressa Reverso, accompagnerà la nostra Erika nel percorso di cambiamento del suo stile alimentare. Che cosa le lasci? Allora, dai Erika, salta col jive, che poi ti fai tutti i salti in padella che vuoi. Grazie a Raimondo Todaro per essere stato con noi. E noi domani, sabato, anzi, balleremo proprio con te nel programma dove partecipa Raimondo Todaro. Essere e benessere. Vorrei che fosse amore. Salta Erika, salta! Se mettiamo subito in pratica il consiglio del nostro cavaliere, che però l'abbiamo tenuto giusto il tempo di un ballo, perché il dottor Ongaro torna al nostro cavaliere ufficiale. E intanto tu salta, dottor Ongaro. Ma a me è stato un po' spiazzato. Mi piaceva aggiungere una piccola cosa sul ballo. Tra l'altro c'era un articolo molto interessante proprio ieri sul Corriere della Sera su questo, che è il sorriso e l'allegria, che è fondamentale. Cioè si possono consumare calorie in modi molto diversi. Il ballo è sicuramente uno di quelli che energizza di più e dà una carica positiva, riduce lo stress, e sappiamo che lo stress è un altro di quegli elementi che ci fa accumulare grasso. Quindi Erika, avendo già questa predisposizione, insomma, è veramente il caso di sfruttarla al massimo. Andate a vedere la foto di Erika sul sito. In effetti, Erika, tu hai un sorriso magnifico e che fa subito simpatia. E chiederei anche alla dottoressa Reverso, perché ormai è quasi un confronto, dottoressa Reverso, dottor Ongaro, continuate a darci consigli sempre più interessanti. Dottoressa Reverso, il dottor Ongaro sfoderato anche il sorriso, il ballo, lei come risponde? Positivamente, sono d'accordissimo con tutto questo. Io devo anche confessare che il ballo, la musica, la recitazione insieme alla cucina è proprio il mio metodo didattico con i bambini. E noi facciamo finta di niente e prendiamo Ernesto che ci chiama da Milano. Ernesto, buongiorno. Buongiorno Erika. Mi sentite bene? Noi ci sentiamo. Erika ha già subito... Bravo Ernesto. Lei quanti cavalieri ha tirato su Erika questa puntata? Erika, io non so se ti invito ancora. Ernesto, ci dica subito. Sì, allora io ho risposto alla domanda, che era la prima risposta sostanzialmente. Aumentare l'attività fisica, aumentare l'apporto proteico. E appunto volevo portare la mia esperienza alla nostra ascoltatrice Erika, perché anch'io ero molto sovrappeso. E grazie a un pochino di dieta, diciamo, e a molta bicicletta ho perso 30 kg. Caspita. E devo dire che mi ha dato un sacco di soddisfazione questa cosa, perché è stato come rimettere un abito della mia taglia, un abito su misura. Grazie Ernesto, perché oltre a dare la risposta esatta, quindi Ernesto, lei come se la cava? come se la cava col giardinaggio? Ma io col giardinaggio ho qualche piantina in casa, perché purtroppo viaggiando molto per il lavoro cerco di mantenerle vive il più possibile, qualche volta fiorisco. Ecco, e quindi le sue piantine saranno felici. Soprattutto Ernesto, io la ringrazio perché ha sostenuto e sostiene Erika, ed è l'invito che io faccio a tutti voi: andate sul nostro sito, sceglietevi il vostro beniamino, sostenetelo, e soprattutto se vi riconoscete nel suo profilo potete approfittare dei consigli della dottoressa Reverso e quindi metterli in pratica. Intanto però noi in linea abbiamo la nostra Silvia. Silvia, ciao! Buongiorno a tutti. Silvia, come sapete, ha partecipato a Mangia con me ed entra nella fase mettiti alla prova. Dopo 4 settimane, infatti, i nostri ascoltatori propongono i loro menù una volta alla settimana e la dottoressa Reverso e il dottor Ongaro li valutano in modo da apportare magari dei piccoli aggiustamenti oppure dei ritocchi. E cercano di capire se il nuovo stile alimentare Mangia con me è stato correttamente metabolizzato dai nostri ascoltatori. Silvia, che cosa hai pensato di prepararti? Ma allora, io avrei pensato questo: per la colazione 3 fettine di pane di kamut integrale al 50%, che ho ripreso a preparare dopo un po' di tempo, ho ripreso questa passione del pane. Brava. E quindi panifico. Panifica. con 3 cucchiai di marmellata di prugne fatta dalla mia mamma, quindi le ho chiesto di farmela con un basso contenuto di zucchero. Sì, comunque la marmellata della mamma è sempre buona, se dottor Ongaro e dottoressa Reverso non ci stanno sentendo. Umore, va bene, mette vivo. Il buon umore. Poi una bella tazza di tè, tè verde o tè nero. Poi uno spuntino con una mela, una banana, un frutto. Sì. E 2 cucchiai di semi di lino, preziosissimi. Questi, Silvia, sei innamorata dei semi di lino. Assolutamente. Ma sa quanti... Mi hanno cambiato la vita. Ecco, i semi di lino cambiano la vita, eh? Sì, sì. E dopo il momento banana, i semi di lino. Andiamo a pranzo. Esatto, per il pranzo ho pensato ad un couscous vegetale, quindi sì, con zucchine, carote, cipolle, pomodori, melanzane, e accompagnato con bocconcini di rana pescatrice al vapore. Mamma mia, ma veniamo a mangiare da lei noi, sì? Io vi aspetto. Certo, aspetto, noi veniamo. Siamo i 1500. Bene. Andiamo, facciamo la merenda. Poi a merenda uno yogurt bianco con pezzettini di frutta di stagione, io ho pensato fragole, con un cucchiaio di miele. A cena una vellutata di piselli e patate condita con olio extravergine d'oliva e accompagnata da qualche crostino di pane di kamut, ovviamente, magari con dei semini di lino. Sì, che qua non mancano mai. E questa vellutata piace alla dottoressa Reverso perché non ha la panna e piacerebbe anche al normanno, Erika? Sicuramente. Quindi va bene. E poi dopo la vellutata... Per cena così, e come spuntino serale o dopo cena, fine pasto, una piccola coppettina di sorbetto alle fragole. Dottoressa Reverso. Molto brava. A me ha fatto venire l'acquolina in bocca. A me tantissimo, veramente tanto, ormai è quasi mezzogiorno. E poi ci dà soddisfazione, sì, mi sembra che questo sia equilibrato, ma mi dà soddisfazione perché Silvia, come altri partecipanti, sta proprio cambiando anche un po' il suo rapporto nel modo di cucinare. Silvia, ad esempio, è tornata a fare il pane, oltre ad inserire nella sua dieta alimenti di cui ancora non le aveva neanche pensato il supposto dell'esistenza, e li sta utilizzando a suo vantaggio. Silvia, mi sembra che in questa fase mettiti alla prova, tu meriti 10 lode. Grazie Nicoletta. Comunque ti dico che noi verremo. Verremo. Allora io apparecchio. Tu apparecchia, e quindi quando se ci invitate a pranzo con il dottor Ongaro e la dottoressa Reverso, vengono anche gli alti e bassi, noi veniamo volentieri. Va bene. Grazie a Silvia, complimenti. Olga, buongiorno. Buongiorno, sono Olga da Roma. Vorrei fare la domanda riguardo alla rigorilità dei pasti per le persone che fanno dei turni in ospedale, sono un'infermiera e quindi ho difficoltà in questo caso. E la domanda particolare riguarda i pasti in giorno dopo la notte. che spesso una persona recupera il sonno e quindi salta la colazione. Sì. Ti volevo chiedere, conviene saltare, passare direttamente al pranzo oppure spostare tutti i pasti in ora in avanti? Grazie. Grazie Olga, bella domanda. Dottor Ongaro, rapidamente, prima di salutarci. È una domanda molto interessante, direi che la risposta è principalmente chi fa i turni così deve dormire, deve garantirsi il recupero con il sonno, quindi bisogna scegliere la strategia nutrizionale che è più comoda per accomodare un sonno completo e riposante, molto individuale. Allora ringrazio Andrea degli Altibassi, il dottor Ongaro, la dottoressa Reverso, un bacio grande a Erika che sentiremo lunedì online, il dottor Ongaro martedì dalle 15 alle 16. Buona giornata. Essere e benessere.